ritorno alla vita reale. E se è sincero, mettitelo da unico. Preferisco un suono di incubi che un abito da incubo. Un suono di incubi che un abito da incubo. Un suono di incubi che un abito da incubo. Il tremore si scioglie con il canto di un gallo. Inizia l'incubo. L'incubo della realtà. L'incubo della realtà. L'incubo della realtà. Vorrei dormire, il sonno non delude, ma il gallo canta e l'incubo inizia. Vita di incubo, vita un incubo, vita di incubo, vita un incubo. Vita di incubo in un mondo di incubi, vita un incubo, sogno un incubo. Vita un incubo, vita un incubo, vita un incubo, vita un incubo.